forte, claro, forte. Sono a Dona Pax quasi. E il Tavaro è ritornato, Sara, Vitrile, Calamari, Cocca, Fellonongo, l'ha preso ne ha. Corretti, sereni, educati, chiacchiere, tranquilli, due chiacchiere, ma senza un comportamento sempre confacente ai signori, non aveva vandaglia, se no è un problema. Io non so, non ero all'ascolto, non ti so dire. Andare a lavorare, perciò teso nudo, vi saluto e ci oddio, non è che io sia, però un po' di esperienza in radio ce l'ho, e se ti dico che è alta vuol dire che c'è un motivo, adesso va molto meglio. Bye. Benissimo, poi sono stato. quando sta radio non la puoi aumentare. Io? Senza la manetta, non mi costa la normale, non lo anche. Capo, io ti sento, però se parla già è un po' devo abbassare il volume. Se come la buona sole fanno? Beh, il volume sta arrivando più forte ma la luce è il radio, eppure il volume è così adesso come l'ho toccato. Anche lì è un microfono normale. Non mi ha portato il discorso, tu? Ma recuperati il tuo. Sì, tu l'hai recuperato la stessa. Non mi recuperati io. Ma anche io come l'ho, non si passa nessuno. Ma non so se sono le tue che si può come la mattina e la e io non avevo bricciato da voi, anzi ti dico di più, sono apparenti e basta, ma no la gente strana, anche se sono amici, ma sono voi, ma non li avrei dato. Si attacca la rudram, si attacca. Quella banda della Toralia? Sto provando. Certo, pure la banda della Toralia? Sì. Ma tutte cuffie sono? Cappa. Ma devi se capire come era lui? No, faccio capire, ma faccio capire. Ah, c'è ancora me l'hai schicciata. Ho detto come era lui? Adesso qualche volta lo capisco e qualche volta no. L'altro la faceva nove state, la faceva schifo veramente, non lo capivo. Come si faceva la comunità? Faceva il barnacchi alla cagagia. E tanto questo Smith non si è recuperato. Ma io con cui, la partenza che ci diventiamo anche noi radio amatori. Se ne bisogno che lo sai, vado col diploma me la prendo. Io vado con il diploma. Io me lo sono diplomato te, ma sempre di gente. Se ti devi fare una cosa, manco lo metto nelle mani. Ah no, va. E si vive, vive. Ma tu non è stato costruito. Lo so, purtroppo così, la vita. Ma cosa non fate per finire? Prima attaccate il schifo di altri genitori, attaccatemi. La prima lì, poi rimetterci. Lo schema, che per il scopo di già. Lo cavolo, qua non so storia per farlo. E beh? L'abbiamo costruito. Non è che mi dove ce l'hanno un piede, noi diciamo questi è il tipo di iniziare, dove stato quando? Vabbè, uno schema per un piano. Insomma, guarda, qualcosa a piatto sicuramente. Ma ti chiedi 3 mesi, a parte di fare anche le calature, le cortine, che cosa faccio? Ah boh, sono via a me, lo so quello. Tu fa, adesso, ti chiedi diploma, vai a Lina, fai 3 anni. Grazie per fare come fare come che ti ha fatto una forza di rivelazione. Ecco, ma dimmi qual è lui. Sì, mi sembra ancora a costruire la ricetta della nostra Russia. Ah, come mi sta dicendo qual è Luisa, se c'è ancora quel cellulare. Io? Ehi. Sì, che ce l'ho. Faccio domani, se a casa a me non lo prendo, dai. Sì. Ah, puoi caricare la batteria? Non so cosa dirti, mi sa che era Stefano, ma ci sarà qualcuno. Ormai ne ha una, tutto, non so, o due forse. Cosa ha detto? Sotto con gli occhi. Tanto lui ne ha un altro. Questa cosa che mi fa. Con 50-60 euro te ne esci, ma te la costa una ventina di euro minimo, 15-20 euro, tanto vale aggiungi 40 euro, 30 euro te lo prendi nuovo il cellulare. Perché non l'ha ricaricato il messaggio? Come ho detto? cazzo, ho detto, ma l'ho fatto io. L'ho fatto io, sono due schede di team, quella stava una robettina, no? E mancava poco, mi sembra 16 messaggi. E me ne ho rimasto una ventina, almeno, insomma l'anno scorso. Ho provato, però non c'era da fare, no? Non andava più, non te ricarichi più adesso. Sì, Massimo, adesso no. Da casa, se non l'hanno fatti, no? Con la tasca si era scaricati nel suo cellulare, si aveva fatto la bellezza di 20 euro di bonus, 20 e 21 euro di bonus. Ma conviene? No, ora non le faccio neanche quelli della team, faccio quelli della Vodafone, le posso mandare 100 al giorno, scade a gennaio, 2 gennaio. Fatti il conto, 100 euro ogni giorno, quanto sono? Se vuoi mandare su ZQZ, pure una volta tu finisci quello e puoi mandare altri, non ci posso mandare sia a gennaio, capito? Sia a gennaio, e lo so, ma è tutto un coso, capito? Tutto... è fatto apposta, è così, la Vodafone, solo la Vodafone e basta. Ma c'ho la team e tutti, io ho 1000 prodotti punti, se voi li richiedo, me ne danno 300 o 1000 punti, ma siamo il vostro. Però i miei, quelli che mi danno a me, durano 6 mesi, non durano 2 mesi come dovrei pure, un mese, 6 mesi sono i miei, perché praticamente... è un regalo che ti fanno, no? In base ai punti che hai, sono 2-6 mesi, no, io lo sto accumulando, adesso una moto non lo ricarico, poi arrivo tipo 3-4 mila o 5 mila punti, guarda però il cellulare dopo. Va bene il microfono su A4. Dove va? Questa è 4. chiacchiero. Ah? Io non so, ah, è parti. Eia. Tu, vediamo, io devo sistemare la cosa. Andava. Eia. Ma scavo, cioè, c'è tutto. Io su, stavo a fare la camera, io ho stato a fare i punti, perché ho antenna, ma la piace e poi... Stavo dicendo, ma molto la sollevi. No, faccio due mesi, sette giorni. Allora, ma come la chiacca del tuo male? Non posso me la fare, se non va bene. Che cosa? La chiacca del tuo male, non va bene. Che è male? Ma non si vede mio male, come? Io non so che ti ma pensavo che la potessi chiudere da lì e mezzo, te l'ha capito? Dove la va per che cosa? La lucetta? La cielo, cielo la forza. Certo. E per lavorare in cielo bisogna montare le praticanti e tutti i mancanti, quelli in plastica. E ci sono i viti sotto, poi bisogna montare tutta la parte di questo protezione, tutto nuovo, capito? Quindi bisogna montare tutto qua. Come fai? Vediamo che... Fammi riguardare, poi... Ma... Ma poi ci la bocca al microfono. Ma si dovuto abbassare il volume, la magari a due. Ehi, ora non l'ho avvicinato, scusa. Non l'ho avvicinato, volontariamente. E quindi la mamma, sapete che sollevare il microfono, abbassare, sollevare, abbassare, sollevare, oh mio Dio. È un casino, vai a lui. Lui, hai buttato questa batteria. Chiude il tappo. Comunque già 33:10 o 33:30 che sono uguali. Poi non so, quella sua è quella sottile, però non so che modello è il suo. Ma io ne ho due, una che non funziona, l'altra che funziona, che c'è il telefono e basta. Che c'è? Che non preso il telefono, è 78:30. Andava. Ma è lui. Casino. Ma paziente, mi sono trovato. Questo è uscito, credo che tutta 30 euro, l'occhia, un sacco di roba 30 euro, c'è. No, ma cellulare? Tutto c'ha apparecchiature antiche, di tutto. No, trovato per casa, perché su eBay e poi da lì, praticamente mi dava questo uscito, sono andato a guardarlo, cazzo la cosa usava. Perché dici? Abbiamo della vetti, spendi qua, spendi là. Porca troia, sono intasato, cazzo. Mi ha fregato il moto a tornare. Mi ha fottito. Puoi guardare, non si sta venuta. Sì, ma ti prende il coglio di spendere, però. Oh, ragazzi, mamma mia, intasato, gioco d'ora, intasato. Non faccio più TV White. Vuol dire che non faccio più TV White. Perché l'ultimo piatto per la sorpresa, visto perché che la casa di mamma aveva tutto il posto di questo controllo, il posto Ma come tu sei anche? Che pensiero? Ma guarda! Sì, il suo ginocchio. Vedi che come fai che vedo più? Sei un... Sono una bella giovane, insomma. Qualche giorno a pensare che sei stato più vicino. Un corso come lui che non faccio bene. qui da portare la tenda. Si va a tenere la tenda dall'altra parte. Yeah. allucinante. Mi chiedo se stai con la mamma mia, ce l'ha fatta, già dopo che ho detto, dove mi sono detto di mamma. E le volevi ricordare, fantastico. Allora, spiegati il video, detto, come ti conosci, se ne vai a tua madre. E ti ho detto, aspetta che è il culo di tua madre. Andavano a fare il culo di voce. Ho detto, quando di voce voleva la casa di mamma, non si è detto di voce. Ma ti sei espresso male? Dove caffè? Parlando. Se te ne va a tua madre, mi sa che è un culo. Yeah. ragazzo, non è così per il Canada, con un attendito. E poi mi ha detto che era vicino a Deinda. Come stava arrivando lei? 9 più 30. E io a lei stavo arrivando 9 più 5, figurati. Ma non era brutto, un po' strano. Infatti ho detto, c'è uno, non mi cercare morto allora. Ma deve essere la moglie di qualcuno. Non lo so. Consigliata. E poi si è sentito un cane abbaiare. E chi sarà mai? Ma da lui dove eri tu che stai a prendere il giro? Il cura ha attaccato un lineare e mi arrivò alle 2:30. E poi funziona.